A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Finché c'è vita, c'è speranza. Dice Don Luigi Ciotti che questo detto, che tutti conosciamo, è vero solo per metà, perché non basta essere vivi per sperare, bisogna anche credere nella giustizia e impegnarsi a costruirla. E proprio per tenere fede a questo motto, lui ha fatto dell'impegno sociale e della lotta alle ingiustizie la sua quotidiana battaglia, concreta, fin da quando nel 1965, per saldare la terra con il cielo, come dice, fondò il gruppo Abele ed è una delle anime di Libera, un nome che è sinonimo di una sfida alle mafie, un nome che racchiude oggi più di 1600 realtà in tutta Italia, un nome che sa anche di speranza. E da qui vogliamo partire per questa puntata particolare di A ciascuno il suo. Questo è il nostro regalo di Natale, un po' di speranza. La speranza che non è in vendita, come recita il titolo del libro di Don Luigi Ciotti, edito da Giunti. Anche la speranza è stata comprata, resa oggetto di mercato, perché da una parte c'è chi se la può permettere, c'è chi ne è escluso, ma voi mi insegnate che una speranza non più distribuita, non più universale, destinata a conforto di pochi, cessa in quel momento di essere una speranza. Allora in questo senso sembrava di dire che la speranza non è in vendita e la speranza o è di tutti, non è speranza. Perché dico questo? Perché in Italia abbiamo avuto per tanto tempo, non solo in Italia, anche una politica che ha sostituito la costruzione della speranza con la vendita di illusioni. Io l'ho chiamata la corruzione della speranza perché si sono vendute facili soluzioni, si sono incrementati veramente delle speranze attraverso il gioco d'azzardo, altre forme di denaro molto facile, molte scorciatoie. Allora la speranza è accorgersi degli altri, prendere coscienza che il mondo e la vita sono realtà plurali e siamo chiamati a condividere questo con la storia delle altre persone. Ecco, Don Luigi, in questa condivisione della speranza, che è tale solo se è condivisa, come lei diceva, si potrebbe vedere per contrasto anche tutto ciò che invece allontana da questa condivisione della speranza, a cominciare ad esempio da uno dei temi che è uno dei vostri cavalli di battaglia, ma che è anche un tema di stretta attualità sia politica sia per voi di impegno, ossia quello contro la corruzione. La corruzione come una delle ragioni che rende la speranza non condivisa. Voi come Libera avete raccolto quante cartoline per chiedere? Sono 1,5 milioni di cartoline che abbiamo voluto inviare al Presidente della Repubblica e speriamo al giorno di potergliele consegnare, proprio perché per lui è un uomo appunto di grande riferimento, di grande speranza, è veramente rappresentante massimo delle istituzioni, è il garante della Costituzione, il nostro Presidente. 1,5 milioni di cartoline raccolte nell'arco dell'anno, anche per dire con forza che la corruzione minaccia il prestigio, la credibilità delle istituzioni, inquina e distorce l'economia, sottrae risorse della comunità e soprattutto viene meno quel senso civico, quindi è un problema di democrazia. E noi chiediamo che si faccia quello che si deve fare, che l'Italia dal 1999, la Convenzione di Strasburgo, non sta facendo, le direttive comunitarie che ci dicono, che ci chiedono di mettere nel codice penale proprio tutti quei delitti importanti che dimostrano fino in fondo la corruzione. 60 miliardi di euro, ci dice la Corte dei Conti, quindi 1.000 euro che vengono sottratti a ogni cittadino italiano e che finiscono in mano all'illegalità, al malaffare, alle persone corrotte. Ecco, lei ha ricordato appunto la cifra stimata dalla Corte dei Conti sul valore e sul peso della corruzione in Italia, ossia 60 miliardi, e le vicende di cronaca anche recente che arrivano da tutte le parti del paese ci raccontano proprio di piccole grandi corruzioni nascoste in uno scambio di nomine in società, in apparati pubblici, in contesti privati, tangenti di vecchio tipo o in bustarelle, diciamo, trasformate in nuove forme. Questa corruzione che pesa in particolar modo in un paese che in questo momento è in crisi e quindi sembra fare ancor di più, quasi rima, se davvero lo fosse, con un'altra parola che grava sullo sviluppo gruppo italiano, che è evasione. Corruzione ed evasione, quanto sono congiunte anche nella opinione condivisa della gente? Lei gira l'Italia in lungo e largo e come pochi altri sa qual è la convinzione delle persone e anche qual è la percezione rispetto all'impegno contro queste due piaghe. Stiamo vivendo un po' di coma etico. La dimensione etica è stata messa in molti contesti, in molte realtà, in molte persone sotto i piedi, perché l'etica è proprio la ricerca di ciò che ci rende più autentici, più umani. L'etica chiama in causa l'integrità della nostra vita, i nostri linguaggi, i nostri comportamenti, la nostra coerenza, la nostra continuità. L'etica deve riconoscersi nei nostri comportamenti e devo dire che la dimensione etica è molto caduta, molto individualismo, molti egoismi sociali. Molti hanno scelto la legalità malleabile, sostenibile, se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene il rispetto. Noi ci troviamo a vivere questa situazione, di questo coma etico, di questo calpestare le dimensioni dell'eticità con varie forme di furbizia. Ecco che l'Italia veramente sulla corruzione è dal 99 che non fa questa legge. Ci sono stati pure dei freni, dei giochi, dell'interesse che hanno impedito di mettere nel codice penale questi tipi di reati. E quindi questa è una grande domanda che chiediamo delle risposte a chi di dovere. Ma giustamente è stato richiamato adesso anche il problema del riciclaggio, dell'evasione fiscale, forme di lavoro nero. E poi mettiamo in questa stima anche approssimativa i proventi delle mafie e viene fuori circa 560-570 miliardi di euro. Allora uno dice, ma signori, attrezziamoci per andare a colpirli, per portare via questo denaro, per restituirlo alla collettività, perché diventino veramente opportunità, servizi. La speranza vuol dire offrire opportunità. La speranza è la tensione nella vita che si fa progetto. Vuol dire creare delle cose concrete per la gente. Parliamo di questa speranza in questo momento, che vuol dire la libertà, la dignità, le opportunità, la concretezza, la speranza e giustizia sociale. E forse appunto non a caso il primo capitolo del suo libro è proprio intitolato alle disuguaglianze, che sono la precondizione che negano la speranza e allo stesso tempo, diciamo, sono il punto di partenza verso tutti questi mali di cui stavamo parlando, ultimo dei quali appunto è quello delle mafie. Invece una forma concreta di speranza e di attuazione concreta dei gesti per gli altri è quello che voi fate con la vostra associazione, quello di Libera, che in questi anni è cresciuto nei numeri, è cresciuta nell'impegno, è cresciuta nelle sue attività, e questo nonostante le minacce. E perché sono tanti i vostri affiliati, quelli che gestiscono anche molti beni sottratti alle mafie, che vedono e subiscono minacce esplicite. Ecco, com'è in questo momento la situazione? Don Luigi, lei ne parla anche all'interno del suo libro, della vostra attività contro le mafie. La situazione da parte mia, da parte di tutti, deve essere di maggior sostegno, maggior stima, anche di grande affetto a dei bravi amministratori, penso ad alcuni sindaci che sono minacciati in territori certamente un po' complessi, e minacciati perché stanno facendo bene la loro parte, sono fortemente impegnati, hanno la testa alta. Ecco, noi dobbiamo sostenere quegli uomini, quelle donne nelle istituzioni che stanno facendo bene in modo attento e puntuale. Per quanto riguarda i beni confiscati, oggi c'è una bella agenzia nazionale, c'è un bravo prefetto che lo porta avanti, ma attenzione, le mafie cercano di fare di tutto per impedire che si riescano a realizzare dei progetti. E allora in questo senso non sono venute meno le minacce: 35 ettari di grano sparite quest'estate su dei beni confiscati in Sicilia, 7 ettari sulla piana di Gioia Tauro di olivi secolari bruciati, fatti saltare degli impianti di irrigazione in altri beni confiscati. Cioè i mafiosi non è che ci stanno a vedere che vengono sottratte loro questo patrimonio, questa loro forza. Ma l'altra sofferenza, credo, è vedere che 3.500 beni confiscati non possono essere destinati, perché la metà di questi beni già confiscati che non vengono destinati sono sotto ipoteca bancaria. Le banche rivendicano l'ipoteca e quindi i comuni non sono in grado di pagarla, le associazioni neanche, e quindi questi beni sono lì che navigano un pochettino. Voi da Torino... Voi da Torino, in una vostra recente attività, insomma in un convegno che avevate organizzato sulle mafie al nord, in particolar modo su questo lei aveva puntato la sua attenzione, con una richiesta anche concreta per far sì che su questi beni non gravino certe ipoteche e che quindi possano essere più velocemente utilizzati dalla società. Qual era? È fondamentale, abbiamo bisogno che si un nodo politico col sistema bancario, queste ipoteche, e chi le ha date le ipoteche a questi mafiosi? Certo, non siamo qui a accusare nessuno, ma certamente a porsi anche delle domande. Una parte di questi beni non consegnati sono ancora occupati, una parte sono quote indivise, allora bisogna che il legislatore trovi una modalità per sbloccare tutto questo e per evitare anche delle facili scorciatoie. I beni confiscati è uno degli strumenti importanti, la sottrazione di questi patrimoni ai criminali e mafiosi. Secondo, però è inquietante che è stato recentemente dal governo che ci ha lasciato sono stati veramente accorciati il denaro, ad esempio, per i fondi per i testimoni di giustizia e i fondi proprio per i percorsi da fare per le vittime della violenza criminale, sono i familiari delle vittime della mafia. E sono stati tolti milioni di euro che invece di metterci attenzione vengono spolpati questi denari fatti in un certo modo. E queste sono alcune di quelle azioni che tolgono la speranza, perché andare a sottrarre, a diminuire i fondi che servono a sostenere chi, come i testimoni di giustizia, decide di mettere in gioco se stesso, la propria esistenza, la propria identità anche concretamente, per esporsi e raccontare quello di cui sono stati direttamente testimoni, vuol dire in qualche modo togliere quell'entusiasmo, quella linfa che fa sì che aumentino anche questi testimoni di giustizia. Sì, ma sono delle abbreviazioni, delle sottovalutazioni, a volte si prendono decisioni a tavolino dimenticando i volti dei familiari che devono avere la priorità dell'attenzione nel risarcimento, nell'accompagnamento dei loro percorsi. Come si declina la speranza nella lotta alle mafie? La stiamo ripercorrendo con Don Luigi Ciotti in questa puntata natalizia di A Ciascuno il Suo. E nella seconda parte parleremo della speranza di chi resiste alle minacce e del coraggio di chi contrappone le parole ai silenzi, come i testimoni di giustizia. A Ciascuno il Suo. Una speranza nata dal buio delle mafie, un fiore seminato nel cratere aperto dal Tritolo, un'associazione cresciuta come mobilitazione contro i boss. È nella voragine delle bombe del 92, è nei giorni più bui della Repubblica, che è nata libera. L'associazione antimafia che oggi conta più di 1600 realtà in tutto il paese. L'associazione che dalle Alpi alla Sicilia porta il suo impegno di denuncia e con esso la sua speranza. E in questa puntata particolare di A Ciascuno il Suo, questo è il nostro modo di farvi gli auguri di Natale e per il nuovo anno, declinando appunto la speranza insieme al fondatore del gruppo Abele, Don Luigi Ciotti. I testimoni, le persone che si mettono in gioco, e abbiamo fatto delle bellissime esperienze dando loro dignità e libertà. Non può venire meno tutto questo. La lotta alla mafia la si fa nei vari territori, la si fa con la sfida culturale, perché la cultura che dà la sveglia delle coscienze, con i percorsi educativi, con il ruolo dell'informazione. Però c'è anche un'insidia che si nasconde nelle tante attività antimafia, che devo dire anche nei territori più ostici, come alcune zone della Calabria o anche alcuni entroterra siciliani, si stanno moltiplicando, che è quella di persone, a volte anche amministratori, che pubblicamente si professano impegnati nella lotta alla mafia e poi abbiamo visto anche da recenti inchieste casomai con quegli stessi mafiosi vanno a braccetto o comunque li sostengono. Ed è stato ad esempio il caso di un sindaco siciliano della stesso territorio dell'ultimo grande superlatitante, che è Matteo Messina Denaro. Ecco, voi che con queste realtà anche territoriali avete un rapporto molto stretto, riuscite a rendervi conto di laddove c'è un impegno antimafia autentico e laddove invece è soltanto facciata? Bisogna stare molto attenti, perché a volte si presentano con la faccia d'angelo questi personaggi. Noi vigiliamo molto, lavoriamo con le prefetture, le questure, con gli organi carabinieri nel vario territorio e proprio nella collaborazione, mettendo le antenne molto vigili, che si può affrontare questa insidia. E ancora una volta l'abbiamo sempre detto, la forza delle mafie non stanno dentro le mafie ma stanno fuori, stanno in queste alleanze, in queste connessioni, in questa zona grigia di chi ha un piede da una parte e un piede dall'altra. E attenzione che le mafie hanno cercato sempre di infiltrarsi dentro le realtà belle, pulite, di valore e significative. Questo lo sappiamo e dobbiamo lavorare di più e bene insieme. Degli episodi ci sono stati che sono il segno che ci invita tutti essere veramente più vigili, più attenti, più concreti e soprattutto il noi che vince. Non è opera di navigatori solitari, fatto con umiltà, lavorando con le giuste istituzioni, ognuno per il proprio ruolo, la propria parte, ma il contrasto alle mafie si fa sul territorio, si fa con l'educazione, con la cultura, ma attenzione, la lotta alle mafie, lo dico con un senso di riconoscenza ai magistrati e alle forze di polizia, a cui va veramente molto riconoscimento, stima, la lotta alle mafie però si fa innanzitutto a Roma, la si fa in Parlamento con le leggi giuste, con gli strumenti giusti, nel mettere in grado anche chi opera di poter operare meglio fino in fondo. Ecco, avviandoci verso la conclusione, Don Luigi, sicuramente come lei stesso ricordava, la lotta alle mafie è molto fatto anche di un impegno culturale, oltre che chiaramente di attività repressiva e di attività legislativa adeguata, un impegno culturale nella quotidianità, soprattutto con la gente che vive nei territori più a rischio, e questa quotidianità molto spesso è affidata a chi come lei anche è un sacerdote, per cui ha un rapporto particolare anche con le persone. Ci sono altri sacerdoti che si sono impegnati direttamente e sono stati essi stessi minacciati dalle mafie in Campania, in Calabria, in Sicilia. Allo stesso tempo però ci sono anche, e lei lo indica in uno dei capitoli del suo libro, quelle chiese che interferiscono, lo mette tra virgolette, interferiscono. Che cosa vuol dire? Che cosa fa a riferimento? No, io devo dire che la Chiesa deve interferire. Sono i mafiosi che hanno detto esattamente, dopo le parole del Papa nella base dei templi, parole chiare, dure, per dire che il Vangelo è incompatibile con la violenza, con le mafie, con il crimine. E allora a un certo punto i mafiosi hanno reagito, hanno mandato dei segnali che la Chiesa non deve interferire. Gli uomini d'onore hanno sempre rispettato la Chiesa, adesso che la Chiesa interferisce mandano dei messaggi chiari di non fare quello che stanno dicendo voler fare positivamente. E invece noi dobbiamo interferire, noi dobbiamo sporcarci di più le mani anche come Chiesa, dove viene calpestata la libertà e la dignità delle persone. Dobbiamo batterci per la giustizia, dobbiamo stare di più dalla parte dei poveri. E laddove viene messa a rischio la dignità delle persone e laddove viene umiliato e soffocato un progetto di giustizia, la Chiesa ha il dovere di parlare. Sì, però molto spesso, e la cronaca e la storia anche della lotta alle mafie lo ricorda, ci sono stati casi di mafiosi che hanno ricevuto sacramenti nelle loro... Questa è la vergogna, da una parte veniva ucciso Don Puglisi, dall'altra parte si chiamava a celebrare la Santa Messa all'architante Pietro Lieri. Questo non è possibile. Non voglio dimenticare quindi le belle espressioni, le belle presenze, la meraviglia e generosità di tante comunità, di tanti uomini e donne nel mondo della Chiesa, parliamo delle Chiese, ma dall'altra parte anche le zone grigie che ci hanno toccato e ci toccano da vicino. L'ultima cosa che le chiedo a Don Ciotti è, per chiudere appunto con un'immagine di speranza, vorrei portarla, che è anche l'ultimo capitolo appunto del suo libro, ma io vorrei portarla in un territorio che è quello del Trapanese, che è il territorio dove appunto si nasconde anche l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra, che è Matteo Messina Denaro, un territorio che gli stessi magistrati considerano ancora per certi versi diciamo impermeabile alle attività, all'impegno antimafia. Ma anche in questo stesso territorio, ad esempio, quando è cominciato il processo Rostagno, ci sono state manifestazioni e cortei contro la mafia. Quindi anche nei territori più difficili in realtà il seme buono seminato appunto sembra essere in grado di germogliare. È così? Beh, lì c'è una bella presenza di Libera, si sta lavorando bene, con i volti familiari delle vittime innocenti di mafia, associazioni, gruppi, segmenti della Chiesa, ancora una volta questo noi, collaborazione con i magistrati, con le forze di polizia. E beh, c'è una bella parte di cittadini che ha reagito, che fa la propria parte e che sente che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Ecco, siamo alla vigilia del Natale e mi sembra di poter dire che Natale non è solo il 25 dicembre in cui Dio entra nella storia dell'uomo, ma noi siamo chiamati a fare in modo che ogni giorno sia Natale, perché ogni giorno ci sono tante persone sulla faccia di questa terra che chiedono di nascere, di rinascere, di trovare un senso, un significato alla vita, una libertà. E quindi in questi territori si festeggia il Natale quando ogni volta si riescono a costruire questi percorsi che liberano queste terre, che vuol dire liberare le persone da questa presenza mafiosa e criminale. A ciascuno il suo finisce qui. Per riascoltare questa puntata, che è un po' diversa dalle altre, o tutte le precedenti, basta andare sul sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche su Facebook nella pagina di Storiacce e sul blog Storiacce. A voi tutti i saluti e gli auguri di un buon Natale e di un felice 2012 da Raffaella Calandra.